Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il design può giocare un ruolo vitale assicurando che i servizi pubblici siano usabili, attraenti, accessibili e sostenibili economicamente. La professione del design porta con sé una serie completa di metodologie, strumenti e tecniche che possono essere usate a vari stadi nel processo di innovazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei nuovi prodotti e servizi. Questa è una citazione letterale che ho tratto dal Design for Growth and Prosperity Report pubblicato dalla Commissione Europea, che è impegnata, ne abbiamo parlato anche ieri, a favorire l'integrazione dei designer nella progettazione di nuovi servizi pubblici. Allora, questa sera vogliamo proprio raccontarvi qualche caso applicato in cui, lasciatemi dire così, la creatività metodica dei designer è riuscita a introdurre innovazioni radicali in un servizio pubblico ormai obsoleto. Per parlarci di questi casi è tornato a trovarci il professor Stefano Maffei del Politecnico di Milano. Buonasera Maffei. Buonasera. Allora, senta, io direi, cominciamo da un caso di scuola, nel senso letterale, dato che parliamo di un college americano. Operazione in realtà non americana, in UK, Solidarity Design Council e Nesta. Ah, ok, mi sono sbagliato, prego. Walker Technology College, quindi le dava l'idea di Walker, il Ranger. Forse, forse ho fatto questa associazione. Ha fatto un'associazione pericolosa. A Newcastle, che diciamo questo intervento diciamo per la riqualificazione di un edificio di un grande complesso scolastico universitario, ha ricevuto un finanziamento di circa 13 milioni di sterline dentro a questo programma del governo inglese che si chiama Building Schools for the Future, e ha utilizzato questa cifra non solo per oggettivamente costruire, quindi fare un progetto architettonico tradizionale, ma ha destinato parte di questo investimento anche a una collaborazione con l'agenzia di Service Design Engine per sviluppare un progetto che facesse partire il progetto architettonico appunto da un'analisi dell'offerta di servizi e delle attività della scuola, presente nella scuola, utilizzando in questo una metodologia innovativa che è quella del co-design, ovvero in cui sia i portatori di interesse, gli stakeholder, che i gestori, i soggetti gestori del college. Ok, non parliamo per acronimi, però gli stakeholder sono gli studenti e i loro genitori eventualmente, no? Allora, facciamo l'esempio. Ecco. Lei è più chiaro di me. Allora, in questo processo sono stati coinvolti in un processo di coprogettazione che ha usato strumenti, metodi e tecniche tipiche del service design. Cioè sono andati a chiedere a studenti e genitori che cosa volevano che questo college gli desse in termini di servizi? Certamente, e hanno contribuito direttamente a progettarne, come dire, la dimensione reale dell'offerta, quindi come sono fatti, che tipo di supporto utilizzano dal punto di vista della tecnologia, come sono fatti gli spazi in relazione all'offerta di servizio. E per fare questo hanno utilizzato delle tecniche di osservazione di tipo etnografico, come per esempio lo shadowing, cioè l'idea che, traducendo letteralmente, le persone che sono impegnate in questo tipo di ricerca diventano l'ombra della persona che effettivamente sta facendo le cose. Quindi li seguono da vicino, monitorano punto punto tutti i comportamenti, tutte le attività che loro fanno per avere un'idea molto più precisa da discutere assieme, poi per riprogettare i servizi. E questa è una tecnica appunto tipica del design. Tra l'altro mi fa venire in mente che qualcosa del genere è successo in un paese del nord Europa, devo confessare non ricordare quale, dove per migliorare un servizio diciamo di tipo ufficio collocamento, che però sembrava non riuscire in alcun modo a risultare attraente, a portare al lavoro diciamo delle fette di popolazione, e lì ci sono stati dei designer che hanno passato alcuni mesi con un campione di persone che rientravano nelle categorie critiche per capire appunto quali fossero le loro esigenze e riuscire a dargli delle risposte, a offrirgli per esempio dei lavori adeguati. Certamente. Questo è la stessa cosa, no? Sì, è esattamente la stessa cosa. Si tratta dell'idea di affrontare la progettazione anche dell'offerta di servizi pubblici usando delle tecniche che sono già comuni nella progettazione di servizi to core, quindi come dire dai trasporti, a, come dicevamo, ai servizi del quotidiano, la ristorazione, eccetera, ovvero quella di osservare ed entrare dentro quello che viene definito lo user journey o il customer journey, cioè il viaggio che il cliente o il cittadino fa all'interno diciamo dell'esperienza del servizio, usare delle tecniche di osservazione per cambiare lo stato di fatto e trasformarlo poi con il progetto in una condizione realizzata migliorativa. Senta, un altro caso abbastanza tipico in cui è il caso di coinvolgere dei designer è quando si progetta un servizio via web. Mi sembra che sia pieno di siti, di portali pubblici nei quali c'è scritto tutto, ma non si riesce mai poi a trovare niente quando lo si cerca. Beh, Beh, certo, questa è una delle parti importanti per andare a definire l'idea del touch point, cioè del punto di contatto col servizio. Devo avere un servizio e non so come fare, quindi c'è un problema di orientamento e di progettazione. Ci sono esempi, credo, anche qui virtuosi, che vengono, diciamo, dalla dimensione mista pubblico-privato, e l'esempio può essere, per esempio, il sistema di carpooling di Autostrade per l'Italia, oppure piuttosto anche servizi che ormai sono diventati dei grandi successi, l'esempio di BikeMe, il servizio di bike sharing installato a Milano qualche anno fa e che è cresciuto esponenzialmente in diffusione, arrivando a coprire praticamente tutta l'area centrale, certo. E adesso, come dire, adesso si estenderà ulteriormente. Qui il contributo dei designer qual è stato? Non è quello di fare una bella grafica, no? No, è quello, diciamo, complessivo, armonizzare tecnologia, impatto sociale, dimensione economica e organizzativa del servizio per renderlo producibile e fattibile e verifica di quelle che sono le qualità percepite dal punto di vista degli utenti, quindi la soddisfazione che poi il cliente riceve davvero nel vivere l'esperienza del servizio. Quindi è una progettazione completa, 360 gradi, che ha dentro elementi di tecnica, elementi organizzativi, ma anche di sensibilità umana e culturale. Grazie allora, professor Maffei. Anticipo agli ascoltatori che continueremo a parlare di questo tema. Grazie ancora, Maffei. Grazie, buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.